140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Noi Restaurant Café, Milano. Con la grande madre ha deciso di fare da solo e di autoprodursi, perché da soli si spende ma si fa quel che si vuole. Pino Daniele. È normale, cioè nel momento in cui metti mano a delle cose e vuoi realizzare dei prodotti come questo, insomma, è impegnativo. Però in realtà sono contento di averlo fatto, nel senso che volevo dare proprio questo tipo di immagine, anche noi come team di lavoro, che siamo tante persone, non è un lavoro impegnativo, serio, dove chi compra il disco e spende i soldi ha in mano qualcosa di sostanzioso. Amore, adesso puoi decidere di entrare in scena e fingere in questo melodramma. Si accendono le luci color tramonto, come il vestito che indossi per me. L'amore si fa attendere. La bellezza dell'oggetto, il CD è bellissimo con un libretto, può essere un po' il futuro del supporto? Ma è un po' antica come cosa, devo dire la verità, è che era impegnativo da un punto di vista economico, però mi piaceva a me realizzare qualcosa. Io a volte vado a cercarmi delle cose, ma non trovo questo, e volevo proprio trovare un prodotto così, cioè che avesse dentro gli spartiti, che avesse dentro una biografia, che potesse anche non essere scaricato da internet, ma che avesse, fosse legato al supporto musicale. Infatti questi sono due strade che si uniscono, che si incontrano a un certo punto e danno vita a tutto il progetto. Infatti il viaggio, la copertina. Questa foto è stata scattata da Alessandro, mio figlio, così per caso, e quindi è una foto vera, è una cosa vera. Come il disco, in realtà, è stato fatto in diversi momenti, ma molto con serenità, con molta serenità, molta calma, senza pensare a tutti i costi di voler inserirsi in un qualcosa che onestamente a volte mi piace, ma a volte non mi piace. Quindi questo sistema mediatico di proporre la musica. Hai detto un po' smarrito rispetto ai tempi attuali. Sì, molti si avviliscono e si ammutoliscono, nel senso che veramente a volte ti cadono le braccia e quindi perdi un po' l'entusiasmo e perdi anche la voglia di fare. Noi invece al contrario ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo detto no, andiamo dritti per la nostra strada e chi vivrà vedrà. Io resto fermo così, come le stelle e pianeti. Centro del mondo è qui, un'esplosione d'amore e tutto ricomincerà. Ringrazio il cielo per avermi dato questa vita. Disco, anima rock blues e anima jazz, hai messo i tuoi amori? Sì, ma anche la ricerca di una canzone nuova, di una canzone che avesse i colori della musica classica, come è stato fatto anche in precedenza con i miei dischi tipo Passi d'autore o altri, che avesse la musica classica ma il colore delle chitarre rock moderne, come per esempio anche l'etnia, perché no, l'etnia voluta dovuta al sud dell'Italia, da cui io attingo perché tutta la mia radice culturale ma musicale è del sud dell'Italia, in più la musica classica e in più l'Africa, cioè che ogni tanto ci arriva questo vento d'Africa. Io poi sono stato in Tunisia, sono stato un po' in giro a realizzare dei prodotti con musicisti africani, insomma. Did you remember me today? Or as my voice got swept Visto che hai detto Africa, ti chiedo qualcosa dei tuoi progetti, perché ti sei legato anche a una realtà importante. Quella è stata una cosa in più che io ho voluto, grazie alla mia amicizia con il presidente di Save the Children, che mi è scattata questa cosa. Ho detto, io vorrei fare un brano e con questo brano fare un video che mi permettesse appunto di andare su internet in modo da farlo scaricare e raccogliere fondi per i bambini. Quindi è una cosa che parte da noi, la stiamo realizzando, abbiamo quasi finito il video, adesso fra un po' lo metteremo su internet. Un altro aspetto di questo tuo momento nuovo è quello del live, ti stai preparando a un periodo molto intenso. Sì, i concerti sono concerti che racconteranno un po' tutta la mia storia attraverso le canzoni, sia quelle vecchie che quelle nuove, quindi mettere insieme queste due realtà. Devo dire che è un po' faticoso, però va bene. In Italia e all'estero, peraltro, con delle tappe importanti. Sì, anche per far vedere, per portare la musica italiana all'estero, che sia diversa da quella che generalmente sono abituati ad ascoltare o a vedere. Ma non mi scordo, tengo sempre a mente la nostalgia che ci ho fatto. Invece, siendo a me, stongo ancora sotto la rotta, coppa vespa, della mia un'annanza, fascia la colonna. O fra, pare che non vedi che non sento, ma se sono buono, non sono manco malamente. Invece, fa in me, perché è una grande bagarina. Chiedo un'ultima cosa, hai parlato anche dell'Italia nella conferenza stampa. L'Italia è un paese che deve investire nella cultura, sembra invece che la cultura sia noia. Hai un ruolo importante, come tutte le persone fanno cultura. Io credo che queste cose sono voci che vengono messe in giro appunto per zittire gli artisti. Secondo me va investito sulla cultura, perché noi siamo un paese che deve esportare cultura, cioè nel senso che l'Italia è un paese d'arte. Se tu gli levi la cultura, gli levi tutto. Cioè, ma anche il turismo, anche bisogna dare la possibilità ai giovani di esprimersi. Questo non è solo nel campo imprenditoriale delle attività commerciali, ma deve essere anche nel campo artistico, soprattutto nel campo artistico. Quindi favorire i momenti di cultura e di insieme. Due scarpe camminano insieme, ognuna una storia diversa. Di notte si riposano fuori dalla porta, aspettando il giorno. E il giorno verrà. Il giorno ha tanti occhi e tante bocche da sfamare. Il giorno ha l'abitudine di farsi perdonare, ma a volte basta poco, basta dirsi come va. Pensi che questo vento nuovo che ha investito anche la politica possa fare qualcosa? Sicuramente è un momento di grandi cambiamenti. sicuramente è un momento di grande riflessione, sicuramente è un momento di riprendere i nostri valori e ritracciare i nostri percorsi. Questo è fondamentale. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Sempre musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Gattopardo Café, Milano. È nato da amici, ha conquistato Sanremo, ora riparte alla carica con un CD così diverso. Di lui dicono un ventenne di successo. Valerio Scanu. Oddio, io mi sento un ventenne che è ambizioso, che ha la fortuna di avere un buon seguito e che può sempre crescere sia artisticamente che sotto tanti profili, ecco. Tu sei sempre stato molto attento ai collaboratori, anche se sei molto giovane, agli autori, ai testi, e anche in quest'album hai messo comunque molta cura. Che scelta hai fatto? Guarda, parte tutto dal live per me. Per me la fase più importante, il periodo più importante di un cantante è proprio quando va in tour, ma anche quando non si trova in tour, che si trova a dover... Allora, diciamo che è una cosa che non ho forse mai, cioè ho detto, però il punto primo di me è cantare sempre dal vivo. Non ho mai cantato in playback, non riesco neanche quando faccio i videoclip che si fanno i playback, non riesco e canto su. È proprio per questo motivo, perché io amo tanto il live. Se faccio se prendo una stecca è perché quello fa parte del live. Però cantare in playback, anche quando non si ha voce, meglio la canzone te la abbassi di 3 toni, però la fai live, fai sentire al pubblico qual è la naturalezza del canto, che è anche quello, e anche cantare quando non si ha voce. Io per esempio il disco l'ho registrato, delle parti del disco le ho registrate che non ero in formissima con la voce, però ti devo dire, e quindi ti dicevo, da lì parte appunto la decisione di fare questo tipo di progetto, nel senso parte proprio da come voglio fare il tour. Il tour lo vorrei fare in tanti modi, lo vorrei trovarmi poi a decidere se fare un tour acustico, un tour con una band, un tour con una mini orchestrina, insomma, fare un qualcosa di... creare un progetto che possa andare bene per tutti questi tre sfaccettature, proprio queste tre sfaccettature. Piccola, sfiorami la mano davanti a questo cielo, togliti di dosso le paure che hai, chiudi gli occhi e guardami, nel tuo respiro vivimi, anche se il tuo dolore è forte, amami. Hai dei progetti importanti oltre al tour? Ci sarà questa cosa di amici che resta avvolta nel mistero, però è comunque una decisione grossa quella di rimetterti in gioco. Come mai? Con che stato d'animo? Ma guarda, tanta voglia di fare, tanta voglia di far conoscere, far vedere come sono cresciuto, tanta voglia di far conoscere anche il nuovo progetto, e tanta voglia di cantare fondamentalmente. Amami. Sente vocalmente, secondo me poi tu in 2 anni hai ancora affinato. Grazie. Hai studiato tanto ancora, cioè sei sempre in stato... realtà ho cantato tanto più che studiare tanto, cresce anche la voce, cresce, matura. Quando ci siamo visti la prima volta, tu eri proprio un ragazzino pre Sanremo, dicevi: io mi vedo tra qualche anno a curare tutto da solo, ad avere la possibilità di curare per bene i miei progetti dall'inizio alla fine. Hai sempre quest'idea dell'avere tutto sotto controllo? Sì, io ho sempre tutto sotto controllo. se mi sfugge qualcosa è proprio perché è l'esperienza magari che mi frega un po', perché giustamente sono giovane e giovane anche nel settore. Però sono contento di quello che ho fatto e di quello che andrò a fare, se Dio vuole, ecco. Che rapporto hai con i tuoi fan? Perché ti seguono in maniera fedelissima. È buono, li seguo anch'io su Facebook, li leggo sul forum ufficiale mio, quindi sento quello che pensano, quello che scrivono, anche le minime cavolatine. Quindi un buon rapporto, sì. Li conosco quasi tutti per nome. Come la realtà, se fuori un uomo non è leale, quando scende un'emozione dentro sé, non trova il senso del suo vagare, come quello che ora sento dentro me, così diverso e non so perché. Che sogni hai, visto che comunque è un'altra tappa importante? Per adesso... Per adesso non lo so, voglio vedere intanto come va questo disco. E poi non lo so. Piano piano le cose vengono anche da sé, non bisogna fare progetti troppo pesanti per un futuro. Per magari non puoi correre il rischio di dover regredire, diciamo, di dover non dover adempiere a quelli che sono anche le fantasie che uno si fa. È logico che mi piacerebbe suonare in palazzetti o nei grandissimi teatri o al Madison Square Garden di New York, però fly down, ecco. Vabbè, ma tu sei uno serio e preciso. Ti chiedo un'ultima cosa. Non hai mai avuto paura dopo Sanremo, dopo quel successo così improvviso? No, sinceramente non ho avuto paura. Forse magari fra qualche anno dirò, ma come ho fatto a non aver paura? Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci attraverso il mio account di Twitter, @MartaCagnola, o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. L'appuntamento è ancora per domenica prossima.